Parlamento di Stefano Folli. Forse il Presidente del Consiglio è stato frainteso, ma la sua frase dalla Cina, le riforme le vogliono gli italiani e non sarà il diritto di veto di qualche politico a fermarle, suona male. Gli italiani intanto hanno votato per il Parlamento europeo, in quello italiano ci sono regole e percorsi ben definiti quando si tratta di mettere mano alla Costituzione. E la riforma del Senato, perché è di questo che stiamo parlando, è una grande fondamentale riforma della Costituzione. Non si può farla contrapponendo una generica volontà degli italiani ai passaggi parlamentari previsti dall'assetto costituzionale. Si rischia di imboccare una strada pericolosa, come sempre è avvenuto nella storia. Le riforme vanno fatte, ma senza strappi e forzature della maggioranza. Per questo è un brutto indizio la sostituzione del dissidente Mineo del PD in Commissione Affari Costituzionali. Chissà cosa sarebbe accaduto se una mossa del genere l'avesse compiuta ai suoi tempi Berlusconi. Renzi è animato dalle migliori intenzioni, ma dovrebbe sapere che l'Italia ha bisogno di rinnovamento, non di commettere altri errori.